merita un approfondimento la figura di Alfonso Rubbiani, controverso intellettuale del periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo, senza dubbio una delle personalità che hanno influenzato maggiormente l'aspetto di Bologna nella transizione verso la contemporaneità. Il motivo? In quel periodo Rubbiani si fece sollecito promotore delle iniziative per restaurare gran parte dei palazzi medievali del centro storico in un'ottica di recupero stilistico, ovvero il tentativo di ridonare una forma il più possibile vicina all'originale con cui un palazzo era stato concepito. Sappiamo che nel corso dei secoli, a Bologna come nel resto d'Europa, gli edifici pubblici sono stati più volte rimaneggiati per adattarli allo stile o alle funzionalità proprie di un certo periodo o della famiglia di appartenenza. In particolare, durante il 600 e il 700, non furono rari gli interventi indiscriminati ai palazzi, soprattutto medievali e rinascimentali, a cui vennero aggiunti interi piani o che furono ampliati senza tener conto dello stile con cui erano stati concepiti. Rubbiani intendeva quindi ripristinare il più possibile lo stile originale. Si trattava di una vera e propria corrente di pensiero che traeva ispirazione dal lavoro di un altro architetto, il francese Eugène Viollet-le-Duc, responsabile a Parigi dei restauri della cattedrale di Notre-Dame e della basilica di Saint-Denis. Costui sosteneva che doveva esserci una corrispondenza tra la struttura e l'apparenza di un edificio. Come presupposto, era necessaria un'approfondita conoscenza delle tecniche artistiche dell'epoca a cui risaliva il nucleo originale di una costruzione e dello stile di quel periodo storico. In sostanza, il restauratore doveva adoperare una buona dose di immaginazione per ricostruire ciò che era stato danneggiato o che era andato perduto, ma soprattutto doveva documentarsi abbastanza da immedesimarsi nel costruttore originario, in modo da donare nuovamente all'opera da restaurare quel senso di completezza che con il tempo era andato perduto. Queste le parole dello stesso Viollet-le-Duc. Restaurare una costruzione non è mantenerla, ripararla o rifarla, è ristabilirla in uno stato completo che può non essere mai esistito fino a quel momento. Una simile concezione di restauro era sostanzialmente opposta alle idee dei puristi dell'epoca, come l'inglese John Ruskin, per esempio, che ritenevano persino immorale questo tipo di interventi. La posizione di intellettuali come Ruskin è definita di restauro romantico e aveva come scopo il consolidamento e riparazione in funzione della conservazione dell'esistente. Erano ammesse operazioni di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di piccole parti danneggiate in modo da prolungare il più possibile la vita del bene restaurato, riconoscendo però a quest'ultimo persino il diritto di morire. Viollet-le-Duc era da alcuni considerato in sostanza nient'altro che un falsificatore, che non aveva scrupoli nel ricostruire ex novo dei monumenti storici secondo la propria personale sensibilità. È un esempio eclatante quello del castello di Pierrefonds, risalente al 1393 e in rovina da più di due secoli, quando Napoleone III incaricò Viollet-le-Duc di restaurarlo. Costui operò di fatto una vera e propria ricostruzione, in cui il lavoro di invenzione fu maggiore di quello di recupero. Nonostante questo, con questa opera l'architetto dimostrò una grande conoscenza dell'architettura militare del XIV secolo, al punto che è stato recentemente utilizzato come set per film e serie televisive di ambientazione medievale. L'intervento costò lo sproposito di 4 milioni di franchi, ma non poté essere terminato a causa della morte di Viollet-le-Duc. Parte degli interni sono quindi rimasti incompiuti. In Italia, sul finire dell'Ottocento, questo ideale di restauro fu accolto con grande entusiasmo e tra gli esempi più eclatanti ricordiamo la costruzione della facciata della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze. Questo per secoli era stato il grande problema della curia fiorentina. Con tutti i capolavori presenti in città, di certo sfigurava avere proprio la cattedrale con la facciata incompiuta in pietraforte. Persino Lorenzo il Magnifico aveva dovuto abbandonare i propositi di completarla dopo aver indetto un concorso per il progetto, rimandandone però la costruzione a tempi più propizi. Nel 1587 si era addirittura deciso di smantellare tutte le statue in marmo presenti, per poi ricoprire la facciata con un sopramattone dipinto con gusto manierista, un evento che venne definito dai contemporanei un compassionevole spettacolo. Dopo altre vicissitudini nel corso dei secoli, si arrivò così al 1864, quando venne interpellato proprio il Viollet-le-Duc per un parere sulla possibilità di eseguire un restauro in stile. Il progetto venne approvato nel 1867 e affidato all'architetto Emilio De Fabris, che realizzò la copertura in marmo policromo che tutti oggi conosciamo. Nonostante il tentativo riuscito di armonizzazione con gli edifici vicini, l'aspetto della facciata risente di una sovrabbondanza di decorazioni tipicamente ottocentesca, al punto che lo storico dell'arte Enzo Carli definì la struttura marmorea uno degli episodi tragici del cantiere della cattedrale. Ma torniamo a Bologna e al progetto di valorizzazione del centro medioevale. Il promotore, Alfonso Rubiani, era nato il 3 ottobre 1848 da una famiglia di forte fede cattolica. Questo lo spinse nel 1870 a intervenire a Roma contro l'avanzata delle truppe piemontesi in difesa del potere temporale del Papa. Questa sua opposizione alle forze del Risorgimento, naturalmente, gli procurò non pochi nemici. Nonostante la sua formazione fosse quella di giurista, il suo interesse per il restauro lo spinse ad abbandonare gli studi al ritorno a Bologna. La sua opera di restauratore cominciò nel 1879, quando era assessore del piccolo comune di Budrio, distinguendosi per competenza durante le consulenze per il restauro del palazzo municipale. Dopo altre esperienze, la svolta arrivò nel 1886, quando venne incaricato di restaurare la Basilica medievale di San Francesco, a Bologna, all'epoca utilizzata come magazzino della dogana. In questa circostanza, Rubiani fece demolire le cappelle che erano state aggiunte nel XV e nel XVI secolo ed eliminò le decorazioni del Cocchi risalenti al 1848. Ma non basta. Distrusse anche gli edifici demaniali che soffocavano l'abside e ripristinò le tombe dei glossatori Accursio, Odofredo e Rolandino dei Romanzi, non senza qualche intervento di ricostruzione basato sulle sue ricerche negli archivi cittadini e anche qualche eccesso di zelo, come nel caso delle decorazioni absidali della chiesa, di chiara ispirazione Liberty. Questo valse a Rubiani un'aspra critica da parte del suo più acerrimo nemico, l'ingegnere Giuseppe Ceri, che lo apostrofò con il poco lusinghiero titolo di «malfattore petronico impegnato a falsificare il falsificabile». Di diverso avviso Giosuè Carducci, che commentò i lavori sull'antico monumento con queste parole: «Oggi, a mano i lividori spariscono alla luce della libertà. La maschera casca e la biacca si spasta, e le bellezze di Bologna sorridono al sole». Fu proprio all'ombra di questo cantiere che si formò la Gilda di San Francesco, un gruppo di artigiani e artisti, tra i quali Alfredo Tartarini, Augusto Sezzanne, Achille e Giulio Casanova, Giuseppe De Col e Alberto Pasquinelli, che diventeranno i più fedeli collaboratori di Rubiani in tutti i suoi successivi restauri. Da quel momento in poi, l'attività di restauratore diventò la sua principale occupazione. Nel 1898 Rubiani fondò la Emilia Ars insieme al conte Francesco Cavazza, un'impresa di manifattura artistica che produceva oggetti d'uso quotidiano come mobilia, gioielli e attrezzi da tipografia. È in quello stesso anno che gli venne assegnato il progetto di restauro del Palazzo della Mercanzia. Nel 1899, sempre insieme al Cavazza, fondò il Comitato per Bologna Storica e Artistica, attivo ancora oggi, con lo scopo di promuovere il recupero e il restauro delle architetture medievali della città. Tra gli interventi del comitato ricordiamo il restauro del Palazzo dei Notai, che venne in parte reinventato, con l'integrazione di finestre bifore sulla facciata e la demolizione del sopralzo settecentesco del Tubertini. Tornarono così alla luce i resti degli affreschi quattrocenteschi, mentre il soffitto a cassettoni venne completamente ricostruito da Achille Casanova. Particolarmente significativo è il caso del restauro di Palazzo Re Enzo. In questa occasione Rubiani decise di abbattere le addizioni all'edificio operate tra la fine del Cinquecento e il Settecento, di aggiungere merli gigliati, definiti dal solito Ceri più atti al riparo di amoreggianti gatti che di combattenti soldati, e di dotare la facciata di trifore con archetti a sesto pieno. Tuttavia, molto più avanti nel tempo, a Novecento inoltrato, durante dei lavori verranno scoperte in uno dei muri le finestre originali. Si tratta di bifore con archetti a sesto acuto, molto diverse da quelle volute da Rubiani. Nonostante le accese polemiche intorno alla sua figura, è indiscutibile l'impegno che profuse nel restituire a Bologna un centro all'altezza della sua importanza storica. Di Rubiani e della sua opera di recupero degli edifici storici bolognesi rimane l'ultimo scritto, come una sorta di testamento spirituale. In Bologna riabbellita, datato 1 gennaio 1913, pochi mesi prima della sua morte, scrisse che il suo operato era unicamente volto a restituire alle antiche architetture guaste dal tempo e dagli uomini la pristina integrità nei modi e nei limiti suggeriti dagli avanzi di lor forme e dai documenti. La storia nelle porte.